mi unisco alla gioia del momento che sta vivendo in questo momento la Thailandia, cioè del successo dell'operazione di salvataggio dei primi quattro ragazzi, e ovviamente siamo ancora comunque con le dita incrociate finché non usciranno tutti. Comunque abbiamo già visto, insomma, che si può fare e ci si riesce a tirarli fuori, e questo è importante. L'altra cosa che volevo sottolineare è questa, che io darò il mio contributo per quello che sono alcuni aspetti culturali e politici di questa vicenda, ma ovviamente non tipo di cronaca, perché non sono assolutamente nei pressi della grotta o dell'ospedale di Charrai, io sono, diciamo, abbastanza distante da lì. Però vivendo qui ho avuto modo di recepire alcune sollecitazioni, alcune notizie anche interessanti di un mito antico che in questo momento si sta unendo, e incredibilmente posso vedere il formarsi di un nuovo mito, di una nuova leggenda. Praticamente la svolta di tutta questa vicenda è stata nel momento in cui sono stati ritrovati i ragazzi, ma nei giorni precedenti c'è stata la visita, tre visite anzi, di un monaco molto conosciuto qui in Thailandia, soprattutto nella Thailandia del nord. E questo monaco, che è un eremita di fatto, è arrivato lì dopo che si era creato una sorta di movimento che lo cercava, perché, e qui abbiamo una prima parte mitologica, una donna del posto che ha un ristorante, ma che è thailandese, ma che ha vissuto lungamente negli Stati Uniti e che quindi sostiene di non avere conoscenza né del monaco né di essere particolarmente credente. Sembra che lei abbia cominciato ad avere dei sogni anche premonitori, cioè prima che i ragazzi rimanessero chiusi nella grotta. E in questi sogni compariva la principessa, diciamo così, che le diceva di chiamare un monaco. Quindi questi sogni si sono ripetuti anche dopo che i ragazzi erano già intrappolati nella grotta, e quindi lei ha fatto dei post su Facebook, in Thai ovviamente, e quindi è partita questa ricerca su chi fosse il monaco da chiamare, fino a che non le hanno fatto vedere un'immagine del monaco che poi effettivamente è andato. E questo monaco è molto famoso qui in zona perché vive un po' tra Birmania, Thailandia, Laos, eccetera, e soprattutto vive nella foresta e fa spesso delle lunghe meditazioni all'interno delle grotte. Uno degli episodi più famosi è stato, lui è rimasto 3 anni in meditazione all'interno di una grotta qui vicino a Chiang Mai, a Lampang. E quindi chi meglio di lui poteva capire cosa stesse succedendo e se si può sopravvivere soprattutto all'interno di una grotta senza mangiare. E quindi lui è venuto 3 volte, ha pregato con i familiari, ha sostato all'ingresso della grotta, soprattutto nella terza volta, che era domenica scorsa, e praticamente quando è uscito non ha fatto dichiarazioni pubbliche, ma sembra che abbia detto ai parenti e ai soccorritori: i ragazzi sono tutti vivi, i soccorritori non sono troppo lontani da loro e li troverete al massimo in un giorno o due. Questo succedeva la domenica, e il lunedì i ragazzi sono stati ritrovati. Dopodiché, ovviamente, il testimone che dice che quando lui è andato via ha smesso di piovere, quindi una serie di eventi che vengono collegati alla sua presenza e al suo intervento che contribuiscono al formarsi del mito. A questo punto comincia a formarsi una nuova leggenda, o comunque ad interpretare il perché il monaco sia stato così efficace, e questo va ad unirsi alla leggenda precedente. Quasi tutte le grotte sono legate a delle leggende, e anche i fiumi. E in questo caso abbiamo una grotta e un fiume. Secondo la leggenda, in realtà quella montagna è la forma di una principessa sdraiata, e anche il nome significa questo, principessa sdraiata. E secondo la leggenda, questa principessa si era unita in realtà ad un uomo di origini non nobili, e per questo motivo il padre se ne era risentito, e quindi lei scappa con quest'uomo e si rifugiano sulla montagna. Ad un certo punto l'uomo si allontana per cercare probabilmente cibo, cacciare, quello che sia, però mentre è lontano viene raggiunto dagli uomini del padre di lei, che lo uccidono. E lei, rendendosi conto di quanto successo e capendo che non poteva sopravvivere da sola con un figlio o comunque dare alla luce al figlio, decide di uccidersi. Quindi, secondo la leggenda, si trasforma nella montagna. In realtà i fiumi che scorrono al suo interno è il suo sangue, e l'entrata della grotta ovviamente fa parte dell'ingresso dei suoi genitali. Da qui si vanno a ricollegare al monaco che, secondo due versioni che ho letto nei vari articoli o post, Secondo una versione, in realtà il monaco è la reincarnazione del figlio della principessa, mentre l'ultima versione che ho trovato, in realtà lui è la reincarnazione del compagno che viene ucciso dagli uomini del padre di lei, e che quindi quando lui è entrato, il monaco, nella grotta, in realtà ha parlato con la principessa chiedendo di liberare i ragazzi, di lasciarli andare. E quindi è molto interessante vedere come pur davanti a uno spiegamento di forze di migliaia di uomini da tutto il mondo, un circo mediatico di dimensioni incredibili, eccetera, in realtà quello che emerge è di nuovo il formarsi di una leggenda. E questo, diciamo, per me è molto interessante, perché poi soprattutto questo ricollegare la leggenda antica con l'attualità. E questo è importante perché significa una grossa partecipazione anche appunto popolare a questa avventura così particolare che stiamo vivendo, che per fortuna si sta concludendo bene, tra l'altro. Poi ci sono gli aspetti politici. La famiglia reale sta partecipando, ovviamente facendo sapere che seguono questa vicenda, e dà anche un grosso contributo economico. Il re ha pagato tutto il discorso delle luci, dell'illuminazione, eccetera. Poi si sa che stanno contribuendo soprattutto a livello economico per coprire le spese enormi di questa operazione. Il governo sta sfruttando anche a livello di immagine questa operazione, che si sta rivelando così positiva. Giorni fa il primo ministro, il generale Prayut, è stato in visita lì sul posto, poi si è fatto riprendere mentre distribuiva da mangiare, per far vedere che dava il suo contributo. Il governatore, che ha avuto fin dall'inizio, diciamo, l'onere di coordinare tutte le operazioni, che nei primi giorni forse sono state un po' caotiche, però il fatto che tutto vada a concludersi in una certa maniera, come speriamo, ovviamente contribuisce a dare prestigio alle forze politiche, sia locali sia, diciamo, nazionali. Io stasera mi sono vista perfino la registrazione dei telegiornali italiani, e devo dire che colpisce vedere come prima notizia in tutto il mondo questa notizia. E tutto questo poi va a coprire, ad esempio, una cosa gravissima che è successa qui in Thailandia contemporaneamente, cioè degli incidenti a Phuket in mare, in cui sono morte più di 40 turisti cinesi. A livello dei media locali se ne parla pochissimo, perché ovviamente il 99% dell'informazione è ovviamente ripiegata sulla grotta di Mesai. L'altro aspetto interessante è stato anche il fatto della grande partecipazione dei locali, proprio della gente del posto, che, diciamo, si sta sacrificando in tutti i sensi. Un esempio è che praticamente pompando fuori l'acqua sono stati allagati tutti i campi della zona, e quindi i contadini hanno avuto il loro raccolto del riso completamente distrutto, e con grande comprensione hanno detto: ma per noi, purché vengano fuori, va bene così. Poi una donna che si è presa l'onere di lavare gratuitamente tutte le divise dei soccorritori, che mi lascio immaginare che lavoro che possa essere. Io giorni fa, sempre su un giornale locale, leggevo di un ragazzino piccolo, credo, non ho ben capito se fosse addirittura compagno di scuola di qualcuno dei ragazzi, o comunque più o meno della loro età, che tutto il giorno va in giro con dei sacchi della spazzatura, e ha detto: io non posso aiutare in nessun altro modo, quindi l'unica cosa che posso fare è raccogliere la spazzatura. C'è veramente una solidarietà profonda, nel niente che hanno, magari di dare comunque un supporto. Dobbiamo innanzitutto fare una prima considerazione, che l'allenatore in realtà ha 26 anni, quindi alla fine non è che sia quest'uomo così maturo e grande, eccetera. È un ragazzo di 26 anni che pare dedicasse tutto il suo tempo libero all'attività di questa piccola squadra di calcio, a tenere questi ragazzi impegnati nell'attività sportiva, essendo proprio, dalle descrizioni che io ho visto e letto sui giornali qua, da parte dei genitori, essendo proprio un capo carismatico, e da parte dei genitori un grande affetto nei suoi confronti. È un ragazzo che ha 26 anni, ma che è stato 10 anni in monastero. Tant'è vero che lui applicava la tecnica della meditazione, della mindfulness, ai ragazzi prima delle partite, ad esempio durante gli allenamenti, per trovare la concentrazione, la calma e quant'altro, e che pare poi abbiano sfruttato anche all'interno della grotta. E all'interno della grotta sappiamo, insomma, che si è comportato altrettanto bene, nel senso che lui ha rinunciato completamente al cibo che ha lasciato ai ragazzi. Ha insegnato a loro di bere l'acqua soltanto dalle stalattiti, e di non toccare l'acqua che era nelle pozze, che essendo fangose era pericoloso. L'altra cosa che ho letto è che siccome ognuno di loro aveva una torcia, praticamente lui ha fatto in modo che ne accendessero una alla volta finché non si scaricava, quindi hanno avuto la luce per più giorni. E comunque sicuramente per i ragazzi avere questa figura che se effettivamente è così carismatica per loro è stato fondamentale nel riuscire, diciamo, a resistere, a non farsi prendere dal panico all'interno della grotta. Da un punto di vista penale, probabilmente avrà delle conseguenze, però da quello che ho potuto vedere da parte delle famiglie, nessuno di loro inveisce contro di lui, anzi, addirittura ieri leggevo, secondo me, un tentativo dell'ultimo secondo di scagionarlo, nel senso che c'è stato un genitore che ha detto: ma no, in realtà lui li ha salvati perché il padre di un ragazzo si era accorto che loro stavano andando nella grotta, quindi lo ha chiamato e gli ha detto: vai, raggiungili, vedi di farli uscire, e che poi in realtà appunto lui si è andato e si è rimasto intrappolato. Ma siccome poi questa testimonianza è uscita soltanto ieri, mi sembra un po' tardiva, insomma, quindi la interpreto più forse come un tentativo da parte dei genitori di scagionarlo, perché in realtà sono affezionati anche loro. Tant'è vero che quando sono usciti quegli appunti scritti da parte di tutti i ragazzi, compreso appunto l'allenatore, lui chiede scusa a tutti i genitori per quello che è successo, e tutti i genitori stanno rispondendo: non ti preoccupare, non ce l'abbiamo assolutamente con te. Le notizie sulla leggenda e sulla vicenda del monaco della grotta le potete trovare anche in un articolo che ha scritto un antropologo italiano, che però, diciamo, si occupa principalmente di Thailandia, che si chiama Edoardo Siani, e che ha pubblicato un'intervista sull'argomento e anche un testo sul sito New Mandala, mito e politica nella grotta della Thailandia nell'operazione di salvataggio.